Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ti prego con educazione, con no, io frate, squintalo. Per con educazione, si dimette o no, ce lo promette? Sì. Quel sì che avete sentito era del CT Ventura, cioè del tecnico della nazionale, allenatore della nazionale che ieri ha fatto proprio un totale flop mondiale contro la Svezia. Sapete che siamo fuori dai mondiali e inseguito dalle Iene oggi il CT Ventura, loro gli hanno detto ce lo promette, che cosa fa, si dimette, lui insomma all'inizio si è un po' divincolato, poi ha detto un sì, anche se poi ha smentito. Da molte parti c'è pressione, sapete tutte le polemiche, le recriminazioni del giorno dopo nei suoi confronti anche di Tavecchio, il numero uno della Federazione Italiana Calcio, perché si dimettano dopo questo disastro. Però insomma Tavecchio ci sta pensando, mentre Ventura prima ha detto boh, avete sentito questo sì, e poi dopo ha smentito, quindi c'è il giallo su questo. Ne parleremo, ovviamente non ci occuperemo solo di calcio. Ieri c'è stato un effetto notte speciale di più di 3 ore, se l'avete seguito in buona parte proprio su quella disastrosa partita. Stasera ci occuperemo anche di molte altre cose, per esempio della politica, visto che notizia di poco fa che a proposito della apertura di Renzi a una grande coalizione che va dal centro sino a Sinistra Italiana, MDP, Sinistra Italiana è possibile, hanno detto poco fa che è possibile questo dialogo per una grande coalizione, poi vedremo come va a finire. Ci occuperemo anche di bollette, perché c'è una bella novità nei confronti di quegli operatori che volevano fare i furbetti con le fatture ogni 28 giorni. Insomma, sempre un menù pienissimo qui a Effetto Notte, quindi vi ricordo per le vostre opinioni, per le vostre riflessioni, pagina Facebook di Effetto Notte che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per messaggi WhatsApp per i vostri commenti che è 349-238-6666. E quindi, prima di tutto, partiamo con il racconto della giornata in sintesi. Conti pubblici, in arrivo da Bruxelles una nuova lettera all'Italia, accelera intanto il PIL, Gentiloni sottolinea, ora non dobbiamo dissipare i risultati. Telecomunicazioni, bollette a 28 giorni, approvato l'emendamento alla legge di bilancio che le vieta. Stati Uniti è di 5 morti il bilancio di una sparatoria in una scuola della California. Immigrazione, botta e risposta tra ONU e Unione Europea sulla gestione dei migranti in Libia. La CNN mostra immagini di aste per vendere uomini. La violenza contro le donne, secondo un'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità, una donna su 3 in Italia è aggredita dal partner. Allarme anche per le bimbe, la violenza sessuale è la seconda causa di accesso in ospedale. Politica, Renzi rilancia le alleanze, MDP, Sinistra Italiana è possibile, si dicono aperti al dialogo col Partito Democratico. Calcio, il giorno dopo il flop mondiale, Ventura preannuncia le dimissioni, poi smentisce, Malagò, presidente del CONI, pressa Tavecchio che però resiste. Partiamo quindi dai conti pubblici. Come avete sentito, in arrivo una nuova lettera della Commissione europea con una richiesta di chiarimenti. Intanto l'Istat stima un aumento del prodotto interno lordo italiano nel terzo trimestre. Buone ma anche cattive notizie sul fronte dell'economia italiana. Secondo l'Istat continua la risalita del PIL, mezzo punto percentuale in più nel terzo trimestre dell'anno e più 1,8 su base annua ai massimi dal 2011, superiore alle previsioni dello stesso governo. Un messaggio di ottimismo, dice il premier Gentiloni. La soddisfazione del governo per i dati che parlano di una crescita tendenziale nel nostro paese dell'1,8%. L'economia italiana accelera. L'entusiasmo viene però gelato da Bruxelles e dalle parole esplicite del vicepresidente della Commissione Katainen. Everybody can see from the numbers that the situation in Italy is not improving. Come si può vedere dai numeri, la situazione italiana, dice, non migliora. La verità è che c'è una deviazione dagli obiettivi di medio termine per quanto riguarda il saldo strutturale ed è giusto che gli italiani lo sappiano. Il giudizio definitivo di Bruxelles sulla legge di bilancio arriverà solo a maggio, ma intanto la Commissione invierà nei prossimi giorni una lettera per chiedere chiarimenti e maggiori impegni sul miglioramento dei conti pubblici. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E nel decreto fiscale collegato alla manovra è stato approvato dalla Commissione Bilancio del Senato l'emendamento del PD che ferma la fatturazione delle bollette telefoniche a 28 giorni. Poi tra poco ne parliamo, capiamo insomma perché è così importante questa modifica. Stati Uniti, sale il bilancio bilancio dei morti della sparatoria nella scuola elementare a Rancho Teama in California. Secondo quanto riportato dai media locali, le vittime sarebbero 5, incluso il killer, e sono diversi i feriti. Per ora non c'è un numero preciso. Per restare all'estero, parliamo anche del tentativo di golpe che sarebbe in corso in Zimbabwe, in Africa, nella capitale del paese africano. Carri armati e soldati. Una colonna di carri armati staziona nei sobborghi della capitale dello Zimbabwe, Harare, mentre personale militare pesantemente armato ha circondato la sede della TV statale. È quanto denunciano media locali ripresi dal quotidiano britannico Independent, il cui sito riferisce di foto sui social di veicoli militari e di poste in cui si parla di colpo di Stato. Quello che si sa per certo è che ieri il capo dell'esercito, Costantino Chiwenga, aveva intimato indirettamente al presidente dello Zimbabwe, l'ultra novantenne Robert Mugabe, di fermare l'epurazione che ha portato alla fuga del vicepresidente Emmerson Mnangagwa, potenziale successore dell'anziano capo di Stato. Quest'ultimo avrebbe licenziato il suo vicepresidente per favorire la successione sua moglie. Grace Mugabe, 52 anni, ha infatti molto seguito nell'ala giovanile del partito di maggioranza del paese. Sul fronte opposto, i veterani della guerra di indipendenza dello Zimbabwe, che negli ultimi anni sono stati estromessi dai ruoli più importanti del governo e del partito. È proprio questi ultimi che il capo delle forze armate Chiwenga intende difendere con quello che si sta profilando come un colpo di Stato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi il tema dell'immigrazione che rende tesi i rapporti tra ONU e Unione Europea, mentre dettagli sempre più imbarazzanti emergono sulle condizioni di detenzione dei migranti nei campi libici. L'accusa dell'ONU, la risposta dell'Unione Europea. La politica comunitaria nell'assistenza alle autorità libiche per intercettare i migranti nel Mediterraneo e riportarli nelle terrificanti prigioni in Libia è disumana. Questa è la durissima denuncia dell'alto commissario ONU per i diritti umani Zeid Ra'ad Al Hussein. Al Hussein va nel dettaglio. Gli osservatori ONU sono rimasti scioccati da ciò che hanno visto. Migliaia di uomini denutriti e traumatizzati, donne e bambini ammassati gli uni sugli altri, rinchiusi dentro capannoni senza la possibilità di accedere ai servizi più basilari. E ha accusato l'Unione Europea e i suoi paesi membri di non aver fatto nulla per ridurre gli abusi perpetrati sui migranti. Nel giro di poche ore la replica comunitaria, l'Europa lavora in Libia in piena cooperazione con l'ONU, dice un portavoce, che si limita a lanciare un monito alle autorità libiche. I campi di detenzione devono essere chiusi perché la situazione è inaccettabile. Sulla stessa linea il presidente dell'Europarlamento Tajani: quanto abbiamo visto accadere in Libia per i rifugiati e profughi è assolutamente inaccettabile. A breve sarà presa la decisione ufficiale affinché una delegazione del Parlamento si rechi in Libia per verificare la situazione. A confermare il degenerare della situazione non esclusiva della rete televisiva CNN, secondo cui in Libia si tengono vere e proprie aste di esseri umani, come all'epoca della tratta degli schiavi. In un video si vede un trafficante vendere un uomo per circa $800. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo anche purtroppo di violenza contro le donne, con dei dati veramente incredibili, allarmanti, che arrivano da un'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità. Una donna su tre in Italia è aggredita dal partner, e tra quelle gravemente abusate più di 2/3 accusano sintomi da stress, da disordine post-traumatico a 3 mesi dalla violenza. Hanno tra i 15 e i 49 anni e più di 1/3 sono straniere. Emerge appunto da questo progetto coordinato dall'LIS con un'indagine condotta negli ospedali. Allarme anche per le bambine: per il 17,9% di quelle fino a 14 anni la causa di accesso al pronto soccorso per violenza è un'aggressione sessuale. E a proposito di violenza contro le donne, intanto da Pistoia arriva questa notizia di un uomo che è stato arrestato per aver preso a martellate la moglie, che adesso è molto grave, in ospedale. E poi a Roma una donna che era nuda, trovata morta in un sottopasso vicino a Porta Pia, vestiti e borsa vicino al corpo. Per gli inquirenti è stata vittima di un attacco brutale, non si è escluso che abbia subito anche una violenza sessuale. Da chiarire se la donna, non ancora identificata, fosse una clochard. Il sottopasso è utilizzato dai senza fissa dimora come ricovero di fortuna e all'interno si trovano spesso coperte e cartoni. E siamo alla politica italiana, con Renzi che rilancia sulle alleanze, come già aveva fatto ieri dalla direzione del PD. Siamo pronti, dice, a fare un'alleanza larga, senza mettere veti, senza personalismi, ma partiamo dall'Italia, mettiamo al centro i bisogni della gente. Lo ha ribadito Emiliano, intanto il governatore della Puglia apre, dice: Renzi mi ha convinto. Veltroni, fondatore del PD, dice: sia inclusivo il partito, la sinistra è specialista nella scissione dell'atomo. Per Letta: Letta è pessimista, si va verso il peggiore degli esiti. Mentre, notizia di poco fa, vi dicevo che MDP, Sinistra Italiana, è possibile, si dicono aperti al dialogo col Partito Democratico. Il nodo della leadership invece frena le alleanze all'interno del centrodestra. Intanto è stato arrestato in Sicilia Fabrizio La Gaipa, candidato del Movimento 5 Stelle alle regionali, per accusa di estorsione. È stato sospeso dai probiviri del Movimento 5 Stelle. Di Maio lo scarica e dice si è messo fuori da solo. E a Ostia si va verso il ballottaggio di domenica, che si svolgerà però sotto lo sguardo discreto di agenti in borghese, un caso abbastanza unico in Italia, poi parleremo anche di questo. E occupiamoci adesso dello scandalo degli abusi sessuali nello spettacolo, che riguarda anche l'Italia. È arrivata la decisione della Warner Bros. Sul regista Fausto Brizzi, collaborazioni sospese, ma il film di Natale da lui diretto uscirà regolarmente. Poveri ma ricchissimi è il risultato della creatività, del lavoro e della dedizione di centinaia di donne e di uomini del cast e della produzione. Per questo Warner Bros. Conferma l'uscita del film il prossimo 14 dicembre. Su Brizzi, che lo ha diretto, però, le parole sono chiare. La società prende molto seriamente ogni accusa di molestia o abuso e si impegna affinché l'ambiente di lavoro sia un luogo sicuro. Pertanto, ha sospeso ogni futura collaborazione con Brizzi, che non verrà associato ad alcune attività relativa alla promozione e distribuzione del film. Niente tour e foto, per intenderci, niente nome nella locandina e nella scheda di presentazione del film. Già Brizzi aveva fatto un passo indietro volontariamente, proprio nelle ore in cui il suo nome era venuto fuori. Poi sono arrivate le attrici intervistate alle Iene e la sua posizione si è fatta più complicata. Il regista al momento tace, restano le parole del suo legale, che riferisce solo di rapporti consenzienti. Anna Rita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere, il calcio col disastro dell'Italia il giorno dopo, lo 0-0 di San Siro con la Svezia, che ha sancito la storica eliminazione dell'Italia dalla corsa ai mondiali di Russia 2018. Il mondo dello sport italiano si interroga tra cause e possibili rimedi e l'allenatore Ventura preannuncia le sue dimissioni, poi smettite comunque, mentre il presidente della Federcalcio Tavecchio resiste e pensa al sostituto. Dopo lo shock per la mancata qualificazione ai mondiali di Russia, il presidente del CONI Malagò va in pressing sul numero uno della Federcalcio Tavecchio. Se ritiene di essere la persona adatta per portare avanti il nuovo corso, si prenderà le sue responsabilità. Io però non farei così, mette in chiaro Malagò. Se voi mi chiedete io cosa farei al posto suo, io mi dimetterei. Ma mi dimetterei perché, tra le altre cose, facendo così, credo che si attesta anche una validità delle cose buone che sono state fatte in questo periodo. Ad intervenire è anche il ministro dello sport, Lotti, secondo il quale spetta a Tavecchio e Ventura decidere sulle loro dimissioni, ma il calcio italiano va comunque rifondato. È una giornata molto triste, direi, dal punto di vista sportivo. È chiaro che il mondo del calcio vada rifondato e vadano prese delle scelte che negli anni passati forse non si è avuto il coraggio di prendere, e oggi credo sia arrivato questo momento. Le parole di Gigi Buffon ieri sono state molto chiare e è evidente che dobbiamo tutti dare una mano a far ripartire il mondo del calcio in tutti i sensi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a questo punto, quindi, il riassunto della giornata è completo, naturalmente con le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero. E quindi aggiorniamo chi sta viaggiando adesso con la viabilità. Intanto i vostri messaggi stanno arrivando sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per SMS e WhatsApp, che è sempre quello, 349-238-6666. Per esempio Walter dice: sul CT Ventura ieri dicevano che fosse un signore, oggi non ha ancora dato le dimissioni e forse ora ci credono di meno, dice Walter. E poi torneremo a parlare anche di questo. Mentre Lorenzo da Roma già anticipa l'argomento di cui parleremo tra pochissimo, dice: ma scusa Roberta, stop alle bollette a 28 giorni, va bene, ma per il cellulare che non c'è bolletta, io pago, cita un operatore telefonico, ogni 4 settimane, ovvero 28 giorni, vale quindi anche per il cellulare? Chiede Lorenzo. Puoi chiarire? Grazie, chiariremo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tantissime, tantissime notizie come sempre in 60 minuti, dalle 21 alle 22 tutte le sere. Ricordatevi qui a Effetto Notte per essere aggiornati su tutto quello che è successo durante il giorno, appunto, di più importante in Italia e all'estero, anche per capire meglio alcuni argomenti. Poi con gli approfondimenti, con gli ospiti, cominceremo tra pochissimo. Per i vostri messaggi vi ricordo sempre, per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure scrivete al 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Già molti ancora commenti sul calcio, sulla partita di ieri, alla quale vi dicevo abbiamo dedicato ieri con un effetto notte speciale di 3 ore più per chi non l'avesse seguito, e poi invece sulla politica. Luigi per esempio dice: inciuci su inciuci, la regia del PD tramite Renzi in mano alle vecchie Democrazia Cristiana, i fuoriusciti sono irriducibili che non vogliono accettare il compromesso storico. Anche di questo ci occuperemo, mentre ora tra pochissimo parleremo di bollette. Vedo già diversi vostri messaggi che chiedono dei chiarimenti che rivolgeremo a il collega del Sole 24 Ore. Intanto, se l'avete acceso puntualmente alle 21, io comunque vi ricordo i titoli. Conti pubblici, in arrivo da Bruxelles una nuova lettera all'Italia. Intanto il nostro paese accelera con il prodotto interno lordo. Gentiloni sottolinea: ora non dobbiamo dilapidare i risultati. Telecomunicazioni, bollette a 28 giorni, approvato l'emendamento alla legge di bilancio che le vieta, ne parleremo tra pochissimo. Negli Stati Uniti l'ennesima sparatoria in una scuola, questa volta in California, una scuola elementare, sono 5 i morti, compreso il killer. E poi immigrazione, botte e risposta tra ONU e Unione Europea sulla gestione dei migranti in Libia, e la CNN mostra immagini di aste per vendere esseri umani. La violenza contro le donne: secondo un'indagine dell'Istituto Superiore di Sanità, una donna su 3 in Italia è aggredita dal partner. Allarme anche per le bambine, la violenza sessuale è la seconda causa di accesso in ospedale. Per la politica, Renzi rilancia le alleanze e MDP, Sinistra Italiana è possibile, si dicono aperti al dialogo con il Partito Democratico. Calcio, il giorno dopo il flop mondiale, Ventura prima preannuncia le dimissioni, poi smentisce, poi poco fa ha chiesto, era notizia di poco fa, avrebbe chiesto 700.000 euro di buonuscita. E intanto Malagò fa pressing su Tavecchio, che però resiste. Non so cosa ne pensi, Carmine Fotina, di tutto questo, del Sole 24 Ore. Caro Carmine, ciao. Ciao, buonasera. Ma noi ci occuperemo di altre cose molto utili per chi ci ascolta, perché parliamo di questa importante novità relativa alle bollette, no? La Commissione Bilancio del Senato ha approvato l'inserimento nel decreto fiscale, che fa parte della manovra economica, di un emendamento, di una modifica per rendere illegale la pratica di far pagare gli abbonamenti per quanto riguarda le telecomunicazioni, quindi telefoni, pay TV, eccetera, ogni 28 giorni invece che ogni 30, perché nelle settimane scorse l'Autorità per la Garanzia delle Comunicazioni aveva diffidato le varie compagnie dal fare queste fatture ogni 28 giorni, aveva minacciato delle sanzioni, e a questo punto c'è stato l'intervento appunto del governo, e l'emendamento impone agli operatori di adeguarsi a questa regola, a questa norma, entro 120 giorni. Ci ricordi, Carmine, bene appunto in cosa consisteva questa cosa e quindi l'importanza anche di questa novità? Sì, come dicevi, ovviamente si è creato un caso molto popolare e anche molto grave, diciamo, visto le sorprese che si erano ritrovati in bolletta i consumatori, ritrovandosi di fatto a pagare 13 bollette anziché 12 nell'arco di un anno. Questo era un po', diciamo, il sistema, il meccanismo. Dopo tantissime, diciamo, ipotesi tecniche e tanta mediazione, si è arrivati all'approvazione di questo emendamento oggi in commissione al Senato. L'emendamento stabilisce che i servizi, diciamo, di comunicazione elettronica, quindi telefonia e pay TV, vanno fatturati su base mensile o al massimo di multipli del mese, ma non di periodi inferiori. Inferiori perché sennò le bollette diventavano 13? Diventavano 13 perché calcolandole su 28 giorni anziché 30, fai praticamente un calcolo, si arrivava appunto a 13 bollette, con un incremento che era stato stimato della spesa media, ecco, per utente di circa l'8%. Come praticamente tutti o quasi ricorderanno, queste erano condizioni che erano state imposte unilateralmente dagli operatori di telecomunicazioni, perché loro, come settore, a differenza di altri settori, hanno questa possibilità di fare delle modifiche unilaterali, perché rispondono, diciamo, al codice delle comunicazioni e non al codice del consumo. Questo per spiegare un po' il tecnicismo che gli aveva consentito in qualche modo. Però adesso questo escamotaggio non lo possono più fare, giusto? Non possono più farlo, pena anche delle sanzioni che dovrebbe comminare l'Autorità per le Comunicazioni, che in teoria potranno arrivare fino a 5 milioni. Le sanzioni, va detto, e anche gli indennizzi, di cui adesso magari parliamo, valgono pro futuro. Ecco, per esempio, appunto, Carmine, siccome stanno arrivando vari messaggi, no? Allora, per esempio, Serena dice: ciao cara Roberta, per quanto riguarda le bollette da 28 giorni, questo emendamento che le vieta sarà retroattivo oppure varrà no, solo per i nuovi contratti? No, varrà solo per i nuovi contratti. Tutto ciò che è retroattivo è in teoria frutto di un eventuale successivo, diverso intervento che dovrà decidere l'autorità per le comunicazioni, ma non viene deciso per via normativa. La norma non può essere retroattiva e quindi si stabilisce anzi che gli operatori hanno 120 giorni per adeguarsi. Va anche detto che in realtà sull'onda della protesta e del malessere, diciamo, nazionale, gli operatori uno alla volta si erano praticamente adeguati, avevano ritirato questa formulazione della bolletta a 28 giorni, però eventualmente se invece qualcosa ancora fosse rimasto, diciamo, di strano, tra virgolette, va eliminato entro 120 giorni. Sì, 120 giorni. Lorenzo da Roma dice, caro Carmine, dice: ma scusa Roberta, stop alle bollette a 28 giorni, ma per il cellulare che non c'è bolletta, io pago, cita un operatore telefonico con questo operatore, ogni 4 settimane, ovvero 28 giorni, vale quindi anche per il cellulare? Una domanda che fanno diversi ascoltatori, sto vedendo. Sì, eh? Vale per tutti i servizi di telefonia, che siano fissi e mobili, e vale anche per il prepagato. Quest'ultimo era stato il punto più controverso. Possiamo raccontare che in questi due giorni al Senato c'è stata una lunghissima mediazione sotterranea, diciamo, comunque un grande pressing, diciamo, da parte degli interessati su questo punto, nel senso che inizialmente si pensava di poter eliminare le prepagate da questo obbligo, invece anche i piani tariffari con modalità prepagata rientrano. Sarebbe stato un po' ingiusto, strano, no? Poi c'è un altro ascoltatore che ha paura che la cosa esca dalla porta e rientri dalla finestra, perché dice: sì, condivido, ma poi se mi mettono le tariffe a 30 giorni e poi aumentano da 7 a 8 euro allora ci perdo, dice, se ci sono degli aumenti poi che si compensano in questo modo. Questo purtroppo la norma non lo regola. Questo ovviamente non può intervenire, anche perché tra virgolette sta alla fantasia, diciamo, degli operatori inventarsi, quindi lì c'è in quel caso bisogno di uno stretto monitoraggio dell'autorità per le comunicazioni, e speriamo che sia molto stretto questo monitoraggio. Sì, assolutamente, perché ecco, questa annotazione del vostro ascoltatore riporta a quello che dicevo inizialmente. Nelle comunicazioni c'è la possibilità di modifiche unilaterali, quindi bisogna che da un certo punto di vista ogni singolo utente apra gli occhi di continuo, e soprattutto l'autorità per le comunicazioni vigili. Per chiudere, Carmine, facciamo anche un accenno alla norma salva nonna Peppina, che cos'è, sì, che riguarda il terremotati, no? Un'anziana di 95 anni che ha vinto un po' la sua battaglia, è diventata il simbolo del terremoto nelle Marche, nel centro Italia. Eh sì, si è molto parlato di questa nonna Peppina, appunto, un'anziana di 95 anni che non voleva lasciare il suo alloggio provvisorio dopo le scosse che avevano reso inagibile la sua abitazione originaria. Alloggio provvisorio che però era stato messo sotto sequestro perché in un'area a rischio idrogeologico e soggetto a vincolo paesaggistico. L'emendamento, diciamo, risolve questo caso, ma tanti casi simili, perché elimina l'obbligo di rimozione che sussisteva prima entro 90 giorni degli immobili in area, appunto, terremotata, in area sismica, che sono però privi di titolo abitativo, appunto, che sono, diciamo, considerati non a norma, diciamo. Verranno rimossi questi immobili provvisori soltanto quando l'abitazione principale sarà stata ricostruita. O al massimo quando lo sfollato avrà avuto assegnata una di quelle che si chiamano case di abitative di emergenza, insomma, le case speciali per il terremoto. Era il minimo. Quindi, insomma. Hanno risolto. Grazie Carmine Futina del Sole 24 Ore. Ciao, buona serata. Grazie. Ciao Carmine. Ora invece con la nostra Betta Fiorito in diretta da Roma ci occupiamo di politica. Ciao Elisabetta. Buonasera radioascoltatori. Allora, ieri è stata la direzione del PD, la riunione cruciale, no? Che doveva essere una reazione costruttiva alla sconfitta in Sicilia, possibilmente anche definire una strategia politica in vista delle elezioni politiche di primavera, e quindi partire soprattutto dalle alleanze, no? Dato che la nuova legge elettorale spinge a fare le coalizioni. Ieri, aprendo la direzione del Partito Democratico, Renzi aveva subito premesso: pronti a dialogare con tutti, ma niente a biure, cioè senza rinnegare nulla di quello fatto sinora in primis il Jobs Act, che da sinistra chiedono di modificare soprattutto per quanto riguarda l'articolo 18, ha prospettato una possibile coalizione che va dai centristi di Alfano sino a Sinistra Italiana, no? Quindi dice una coalizione vera, non un mero apparentamento tecnico, perché dobbiamo vincere, e ha parlato appunto di questo ampio schema delle alleanze. C'è da dire che mentre ieri hanno tutti votato, no, la relazione di Renzi, c'è stata l'astensione solo del gruppo della minoranza di Orlando di sinistra, da più parti si è parlato, Betta, di una finta apertura da parte di Renzi, perché sa che probabilmente, non cambiando alcuni punti di vista su certi temi, non dando una svolta e tenendo dentro i centristi di Alfano, probabilmente a sinistra non hanno molta intenzione di fare parte di questa alleanza, e per qualcuno è stato solo un gioco del cerino, cioè lasciare in mano alla sinistra il cerino per dire: vedete, se non vinciamo è colpa vostra. In realtà poco fa intanto è intervenuta la ministra della salute Beatrice Lorenzin, alfaniana, che ha detto, sentiamo che cosa ha detto. Ritengo che l'apertura che Renzi ha fatto a noi che siamo stati al governo insieme per 5 anni sia un'apertura, come posso dire, intelligente. Io credo che poi alla fine noi dovremo fare la scelta che è quella che ci permette maggiormente di far comprendere ai cittadini la scelta che noi abbiamo fatto 5 anni fa, che è stata una scelta molto difficile e dolorosa, ma che ha garantito per noi a livello personale, ma che ha garantito la stabilità del governo per 5 anni, 3 diversi presidenti del Consiglio dei Ministri, ma con i numeri che abbiamo avuto oggi, che sono dei numeri ottimi per il PIL. E poi è notizia di poco fa, Betta, che MDP, quindi fuoriusciti dal Partito Democratico, Sinistra Italiana, è possibile, che sembravano un po' impossibilitati a questa apertura, a questa alleanza, invece poco fa hanno detto sì, nei prossimi giorni ne parleremo, siamo aperti a questo dialogo. Sembra che abbia fatto da pontiere Fassino, no? Ex sindaco di Torino Piero Fassino, ex governatore, sì, sì, del Piemonte. Sì, la realtà vera è che mi sembra che le posizioni di Renzi e Bersani siano ancora distanti, perché Renzi oggi al TG1 ha detto: noi siamo stufi di fare questi balletti, dobbiamo parlare di programmi, e Bersani ha detto: se vogliono fare delle proposte noi siamo qui, ma non possiamo parlare di alleanze così, vogliamo parlare di programmi. Il problema è che bisogna capire se i loro programmi sono simili. Ecco, e questo è il problema, certo. Perché da una parte è vero che Renzi ha detto no a Biure, quindi il Jobs Act così com'è non si tocca. Però è vero pure che ha aperto sullo Ius Soli e sul testamento biologico. Dall'altra, Bersani invece insiste proprio sul Jobs Act, ha detto: io come faccio a dire alla gente che il Jobs Act ha funzionato, o che la buona scuola anche ha funzionato, no? Che è un'altra riforma molto contestata anche dagli insegnanti. Sicuramente ci sono due visioni di politica economica molto diverse, che nell'ambito di una coalizione non è facile poi mettere insieme, quindi non è solo un'antipatia questa volta, ma si stanno cominciando a vedere quelli che sono veramente i nodi di questa grandissima coalizione, perché Lorenzin e Alfaniani sono tutti contenti di essere inclusi, anche perché il loro risultato in Sicilia è stato quasi pari a nulla. Dall'altra parte però è vero, Fassino, che l'ex segretario, l'ultimo segretario di S, cerca di fare da pontiere tra la sinistra e la visione invece di politica economica più centrista di Renzi. Secondo me l'accordo paradossalmente c'è sui temi più etici, ecco, in questo lo Ius Soli oppure il testamento biologico, su questo secondo me Renzi è disposto a cedere, sulle questioni economiche un pochino molto di meno. Beh, anche perché poi negherebbe quello che ha fatto il suo governo. Sarebbe rinnegarlo. Ti leggo un po' di messaggi delle ascoltatrici e degli ascoltatori, dalla pagina Facebook di Effettonote al 349-238-6666. Luigi, a proposito di questa possibile, quindi, dialogo di apertura e anche di grande coalizione da Alfano sino a Sinistra Italiana, Luigi dice: inciuci su inciuci, la regia del PD tramite Renzi è in mano alla vecchia Democrazia Cristiana, i fuoriusciti sono irriducibili che non vogliono accettare il compromesso storico. Poi Andrea: sono patetici, ma pensano davvero di riuscire ad avere ancora consenso, stanno tentando di tenersi le poltrone, ma dell'Italia e degli italiani chi se ne frega. Per Sabrina: una larga intesa questa, che sarebbe carino e coccoloso, dice, chiamare arcobaleno. Molto sentimentale Sabrina. Marco dice: alle prossime elezioni questi signori si sveglieranno malamente dal loro lungo sonno, ma chi pensano che li voterà più? Per Simone: Alfano non c'entrerebbe nulla, per il resto meglio che il vecchio PDL, mentre Cristiano dice l'idea di una melassa ipocrita è ripugnante, gli sembra questa cosa. E poi invece altri, ecco, piuttosto critici. Domenico poi scrive: il solito miscuglio che sa di minestra riscaldata. Che dici? Beh, insomma, è chiaro che questa legge elettorale è stata fatta con le coalizioni anche per svantaggiare il Movimento 5 Stelle. Io questo lo ribadisco perché è chiaro. È anche vero che porterà due coalizioni, una di centrodestra e una di centrosinistra. Sappiamo che queste coalizioni sono sempre state molto frastagliate, sappiamo anche che all'indomani delle elezioni ci si divide, le maggioranze cambiano, i gruppi parlamentari si moltiplicano. È chiaro però quello che ha detto Fassino ieri, e ribadisco, è che senza il PD comunque non c'è il centrosinistra. E ovviamente anche qui MDP un pochino messo all'angolo, perché che cosa fanno questi signori se corrono da soli? Quindi alla fine un'intesa, malgrado quello che bisogna dice, trovarla, dice. E lì Enrico Letta che dice si va verso il peggiore degli esiti. Poi per quanto riguarda i radioascoltatori, è vero, il centrosinistra o comunque questa alleanza particolare anche con Alfano ha governato per 5 anni, se poi il centrosinistra perde le elezioni e c'è un'alternanza, questo qui accade in tutti i paesi europei. Un'ultima cosa però vorrei invece porre l'attenzione su quello che sta succedendo nel Movimento 5 Stelle, sì, con il viaggio di Luigi Di Maio negli Stati Uniti, e qui c'è un po' un riposizionamento, no? Siamo passati da una politica molto terzomondista del Movimento 5 Stelle e anche un po' filorussa, e invece vediamo un Di Maio che dice no, noi non siamo appoggiati dalla Russia, anzi la riforma fiscale di Donald Trump la vorremmo applicare in Italia. Insomma, quindi c'è una sorta di girare un po' a 180 gradi e di ritornare invece verso un asse più atlantico che non verso filo russo o come sembrava terzomondista. Betta, abbiamo proprio 23 secondi in cui dovresti rispondere a questo ascoltatore che ti chiede: per favore, puoi dirmi la differenza tra inciuccio e accordo politico? Sintetica, sintetica. Beh, no, l'accordo politico è quello che stanno cercando sia il centrodestra che il centrosinistra. L'inciuccio è un'altra cosa, si fa in Parlamento e magari perché ha a che fare con le poltrone. Qui stiamo parlando di programmi per andare alle elezioni, li chiamerei accordi politici. Bene. Poi all'indomani delle elezioni possono anche fare l'inciuccio per le poltrone. Diciamo sono posteriori. Secondo me l'inciuccio ha a che fare con la poltrona. Molto bene. Grazie Betta Fiorito. Grazie da Roma. A voi. Ciao Elisabetta. Buona serata, direi che adesso ci prendiamo questa pausa, voi continuate con le vostre riflessioni, i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure SMS e WhatsApp, li potete mandare al 349-238-6666. Tra poco parleremo di altri argomenti, naturalmente. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete sicuramente al posto giusto, nel momento giusto, e anche con voi se volete la conduttrice giusta Roberta Giordano. Continuiamo con le tante notizie di cui in parte abbiamo già parlato, adesso poco fa abbiamo parlato anche molto di politica italiana, del rilancio dell'alleanza del PD rilanciata da Renzi, che andrebbe dal centristi di Alfano sino a Sinistra Italiana, poi vedremo come si procede. Abbiamo parlato delle bollette inizialmente, di questa modifica dopo le minacce di sanzioni da parte dell'antitrust nei confronti delle pay TV e degli operatori telefonici. Adesso ci occupiamo del ballottaggio di domenica prossima a Ostia, perché ci sarà un piano di sicurezza molto particolare. Intanto vi ricordo molto velocemente che le notizie più importanti sono appunto per quanto riguarda i conti pubblici, la lettera che è di nuovo in arrivo da Bruxelles nei confronti dell'Italia, mentre intanto accelera il nostro prodotto interno lordo. Per le telecomunicazioni, vi dicevo, bolletta a 28 giorni, è stato approvato oggi l'emendamento alla legge di bilancio che le vieta, dovranno essere a 30 giorni. Negli Stati Uniti l'ennesima sparatoria in una scuola, questa volta in California, sono 5 morti compreso il killer. Immigrazione, botta e risposta tra ONU e Unione Europea sulla gestione dei migranti in Libia. La CNN mostra immagini di aste per vendere esseri umani. Poi la violenza contro le donne, questa ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità secondo il quale in Italia una donna su tre è aggredita dal partner. Della politica abbiamo appena parlato, del calcio ci occuperemo poi, di questo giorno dopo il flop mondiale. Mentre con la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. Come vi dicevo, parliamo del ballottaggio che ci sarà a Ostia il prossimo 19 novembre. No, sapete che dopo l'aggressione alla troupe della RAI da parte del clan Spada, di cui abbiamo parlato molto, e la presenza della criminalità organizzata sul territorio lì a Ostia, queste cose hanno portato all'innalzamento del piano di sicurezza. È stato annunciato oggi dal ministro dell'interno Minniti, che ha detto che ci saranno degli agenti in borghese per sorvegliare i 183 seggi ad Ostia. Una misura molto particolare, no Raffaella? Beh, è una misura da città in emergenza, la presenza di agenti in borghese nei seggi di un esercito chiamato a vigilare fino al deposito delle schede, quindi domenica sera, e poi ancora con la disposizione di squadre di forze di polizia anche a controllare soprattutto nei quartieri quelli più difficili, che sono quelli di Nuova Ostia e di Ponente, che sono di fatto i quartieri della feudo, della clan, del clan Spada. Queste misure sono di sicuro la spia, diciamo, della situazione ora di tensione che si è creata dopo le vicende che ricordavi, ma da anni di stratificata presenza della malavita organizzata con tutti i condizionamenti che questa comporta. Sia da un punto di vista, diciamo, di condizionamento di atmosfera, di ambiente tra le persone, ed infatti anche la affluenza, il bassissimo tasso di affluenza del primo turno del 36% è stato valutato come un'ulteriore spia, diciamo, di un condizionamento criminale rispetto al voto e di sfiducia da parte della popolazione. Non a caso oggi il ministro dell'interno, partecipando per ad Ostia al 10° municipio di Roma, non ce lo dimentichiamo mai, perché appunto Ostia è stata sciolta per infiltrazioni mafiose dopo l'inchiesta, appunto Mondo di Mezzo, ha voluto assicurare l'impegno della Viminale nel ripristinare la legalità, ma ha concluso con un appello al voto, perché soltanto l'esercizio del voto può in qualche modo essere la migliore risposta alla garanzia, però alla garanzia, diciamo, di democrazia. Di sicuro il clima è un clima di emergenza, di difficoltà, di tensione, di sfiducia anche nei confronti, diciamo, un po' delle istituzioni che ci sono state fino adesso. Saremo a vedere se la percentuale di affluenza, che al primo turno era stata clamorosamente al 36%, salirà domenica, quando le due candidate, perché è una sfida tra donne, la candidata Grillina e quella del centrodestra, appunto, se l'affluenza supererà il tasso della percentuale del primo grado. Insomma, auguriamoci che ci sia una svolta, insomma, se davvero vogliono cambiare le cose, e prima di tutto le elettrici e gli elettori hanno loro in mano, insomma, un po' di potere decisionale, no? Per capire. Sempre prima, è la prima e fondamentale esercizio della democrazia, quello del richiamo a voto. Per questo, appunto, l'affluenza così bassa al primo turno è stata considerata anche dal commissario prefettizio uscente, in un'intervista che aveva fatto proprio a Radio 24, lo aveva paragonata ai percentuali che ci sono nei paesi e nelle zone ad alta presenza di inquinamento mafioso, perché c'è sfiducia nei confronti, diciamo, dell'andamento delle cose, per cui la gente dice: me resto a casa, non vado neanche a votare. Raffa, sentiamo per chiudere proprio Minniti, la voce, un passaggio di Minniti. L'attività tuttavia di prevenzione e contrasto alle organizzazioni criminali e mafiose non finisce domenica. Continuerà, e continuerà con capacità investigativa, continuerà con risultati che si aggiungeranno ai risultati già ottenuti. L'obiettivo che noi ci siamo dati è di liberare Ostia e il suo litorale dai condizionamenti mafiosi. E speriamo che sia la volta buona. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Roberta. Ciao Raffaella. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Il degrado, dice Silvia, di una certa parte di Ostia è sotto gli occhi di tutti e non da ieri. Ora tutti fanno a gara per ripristinare la legalità, ma se ognuno avesse fatto la propria parte, evitando di girarsi dall'altra parte, ora racconteremmo un'altra storia. Purtroppo sì, Silvia, speriamo che sia la volta buona, che lo Stato sia definitivamente presente sul territorio. Ora ci occuperemo invece della disfatta dell'Italia tra pochissimo. I titoli ve li ho ricordati, ma vi dico molto velocemente che c'è appunto in arrivo ancora una nuova lettera dell'Unione Europea all'Italia sui conti pubblici, perché Katainen, vicepresidente della Commissione Europea, dice che la situazione non migliora in Italia, anche se il PIL sembrerebbe al top da 6 anni a questa parte. Poi anno zero per gli azzurri, la Federcalcio sotto assedio, adesso ne parliamo, e poi Renzi che rilancia le alleanze e MDP, Sinistra Italiana è possibile, che sembrano aperti al dialogo. E poi migranti all'asta in Libia come i tempi degli schiavi, questo video shock della CNN. Quindi siamo al giorno dopo il flop mondiale che ieri abbiamo raccontato in diretta anche qui con questo lo specialissimo di Effetto Nota che è durato più di 3 ore. C'era il nostro Dario Ricci anche fra i vari. Ciao Dario, anzi era proprio allo stadio di San Siro che ha seguito in prima persona, caro Dario. E oggi è scoppiato già ieri sera, insomma ulteriormente si è infiammato oggi questo dibattito sulle cause che hanno determinato questo fallimento mondiale, nazionale. La Federcalcio, dicevamo, è sotto assedio, scendono in campo ex allenatori, ex campioni del mondo, grandi esponenti del calcio italiano, presidenti di club, ma anche la politica. Per esempio c'è il ministro dello sport Lotti, vogliamo sentire che cosa ha detto a proposito di Tavecchio, di Ventura. Molto triste, direi, dal punto di vista sportivo. È chiaro che il mondo del calcio vada rifondato e vadano prese delle scelte che negli anni passati forse non si è avuto il coraggio di prendere, e oggi credo sia arrivato questo momento, tutti dobbiamo dare una mano. Insomma, c'è tanto da fare, c'è molto da fare, e credo che sia opportuno davvero sfruttare questa occasione, lo dico ovviamente in negativo, per rifondare del tutto il calcio italiano. Quindi da molte parti chiedono di rifondare il calcio italiano. Anche Malagò, presidente del CONI, insomma, non ha, diciamo, delle parole tenere per Tavecchio e Ventura. Se voi mi chiedete, perché tanto so che tra un secondo mi arriva questa domanda, io cosa farei al posto suo? Io mi dimetterei. Ma mi dimetterei perché, tra le altre cose, facendo così, credo che si attesta anche una validità delle cose buone che sono state fatte in questo periodo. Si riferiva a Tavecchio. Per quanto riguarda Ventura, anche su lui premono moltissimo, no? Su allenatore che ha fallito queste qualificazioni mondiali, sembrerebbe, le Iene lo hanno, avevo fatto sentire all'inizio, rincorso per chiedergli allora che fa, si dimette, non si dimette. Senti, risentiamo questo breve passaggio. Ti prego con educazione, con no, io fra le squintalo. Per con educazione, si dimette o no, ce lo promette? Sì. Ha detto sì, dopodiché ha smentito e anzi ha chiesto, se ti risulta Dario Ricci, 700.000 euro di buona uscita che deve includere anche i mesi per cui dura ancora il suo contratto. Beh sì, le cifre sono quelle, Roberto, siamo intorno a 500-700.000 euro. Ora non conosco personalmente Ventura e non posso quindi esprimere giudizi sulla persona, né me li stai chiedendo, però trovo questa vicenda che si commenti da sé, perché insomma Ventura ieri doveva presentarsi alle telecamere, innanzitutto nella flash interview, l'intervista che viene fatta immediatamente dopo il fischio finale, che è esclusiva della TV di Stato e che prevede la presenza dell'allenatore. Non si è presentato, ha mandato a metterci la faccia il capitano Buffon, di cui abbiamo visto le lacrime. Poi. Dario, dopo ti ricordi, perché noi siamo andati avanti fino a mezzanotte con Effetto Notte. Mi ricordo, scusa, finisco un attimo d'aggiornamento. Sì. Dopo più di 2 ore di attesa si è presentato in conferenza stampa con questa posizione, francamente non difendibile, di non dimettersi perché doveva parlare col presidente. Adesso, da quello che ci risulta, sta discutendo del carattere della buona uscita. Insomma, onestamente è difficile essere dalla parte di Ventura, cosa che personalmente non ero neppure prima, perché non mi è piaciuto il modo in cui si è proposto nel ruolo di commissario tecnico, a partire dal fatto che è colpa pure di chi l'ha scelto. Infatti, tra gli ascoltatori c'è Giuliano che scrive: lo scandalo non è lui e chi ha redatto il contratto senza clausole rescissorie ben precise, ma come ripeto, i soldi non sono di Tavecchio ma la goma di tutti noi, e quindi chi se ne frega, hanno pensato i dirigenti incapaci. Luigi: il calcio dovrebbe essere molto ridimensionato, le cifre astronomiche di cui questi cafoni rinciviliti si fanno belli vengono pagati in un modo o nell'altro dai cittadini. Questo non lo so, però insomma, che dovrebbe essere dimensionato, io sarei d'accordo. Elena scrive: il contratto doveva prevedere anche un l'autocompenso, ma con la condizione essenziale della qualificazione, altrimenti ci doveva essere una penale. Intanto paga Paperone, cioè noi. Elena, in realtà è Pantalone, Paperone è ben più ricco di Pantalone. Elena dice: chiedi 700.000 euro. Cosa prevede il suo contratto? 700.000 euro mi sembrano pochi, dice lei, visti i budget del calcio per essere previsti per contratto. Comunque, se si conoscono i termini del contratto è meglio. Francesco dice: non dico che Ventura dovrebbe risarcire i danni, ma almeno un pizzico di decenza. Il contratto di Ventura è di 1.300.000 euro l'anno. Chiaramente è stato rinnovato nel 2020 proprio con, fino al 2020, proprio con la clausola da parte della federazione di rescinderlo nel caso che non fossero arrivati, come ahimè accaduti, i risultati sul campo. È chiaro che, come ogni lavoratore, però Ventura anche ha, diciamo, linea di massima e giustamente direi diritto a una delle garanzie, ad arrivare alla fine alle garanzie previste dal contratto stesso. Detto questo, ho trovato di estrema ineleganza che direi di sì. Stiamo dedicando così tanto tempo al tema. La stampa estera ha dato molto spazio a questo flop, no? Dalla Francia all'Argentina hanno messo un titolo in prima pagina in italiano per parlare di questo flop. Ma mi rimane una curiosità in questo minuto che ci rimane. Paolo Cannavaro, fratello di Fabio e attuale difensore del Sassuolo, ha detto: il mondiale non l'abbiamo perso contro la Svezia, l'abbiamo perso 15 anni fa, quando grazie a una magna degli addetti ai lavori arrivavano in Italia bidoni da ogni parte del mondo a soffiare ingiustamente il posto ai nostri ragazzi. Mi dici chi sono questi bidoni in 40 secondi? Bidoni no, non te lo posso dire in 40 secondi. Sono una fascia di giocatori stranieri di bassissimo livello che di fatto potrebbero non essere acquistati e potrebbero lasciare spazio a... E perché vengono acquistati, se sono dei bidoni? Vengono acquistati perché economicamente spesso più convenienti e che permettono in modo più facile delle compravendite su cui lucrano società e agenti. Ho capito. Grazie Dario Ricci. Ciao Dario. Grazie a voi. Ciao, buona serata. Noi ci lasciamo brevemente, poi sapete che ritorno giusto alle 22 per ricordarvi in breve i titoli principali.